Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte, ciao a tutti. Dato che è maggio, vorremmo aprire con una frase presa dai muri di Parigi del maggio 68, che ci sembra molto di grande attualità. Prendete i vostri desideri e considerateli realtà. Avremmo voluto cominciare questa trasmissione proseguendo quella dell'altra volta sul lavoro, per cui avevamo domandato alle compagne, delle compagne, che cos'è per voi, per te il lavoro, e abbiamo caricato i risultati sul blog, dove li potete trovare, coordinamenta.noblogs.org. Pensavamo questa volta di dedicare la prima parte della trasmissione a tutta una serie di collegamenti che non siamo riusciti a fare la volta scorsa, ma anche questa volta abbiamo avuto un contrattempo, per cui aiuto. E quindi cominciamo direttamente questa trasmissione con l'altro argomento che ci eravamo date. Toi, le ciel t'aidera. Mon seul rêve nettoie le cauchemar d'une vie qu'un espoir cassé. Bien noir comme une nuit blanche, passée à la belle étoile. Dès que les Russes vivent, la solitude me guette. L'envie de péter les plombs. Mais n'a dialogué dans ma tête. Ouais, j'ai coupé les ponts avec leurs lois et leurs baguettes. Façon plus rien ne compte. Et même le poids de mon mal-être. Alors je marche. Mais sans savoir où aller, j'en ai marre. Dans ma tête, trop d'idées noires installées. Ouais, je marche. Mais sans savoir où aller, si c'est dormir en frac. Dans les marges, une cage d'escalier. Comme les fantômes errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlacent et me laissent marcher sans but. Le regard vers le ciel car seules les étoiles brillent. J'ai attendu mais les anges ne sont pas descendus. Les nuits sont tellement froides. Chaque matin j'ai le cœur glacé. Rien que je camberge en attendant de voir leur passé. Trop de haine envers ce monde on va leur casser. Pendant que les flics cherchent et que la juge rêve de me placer en quatre murs. Mais je me laisserai pas avoir. Enfant dehors, materné par la liberté, ma voix. L'argomento su cui vorremmo imperniare questa volta la trasmissione parte da una data, e cioè anzi da due date, dalla data del 12 maggio 1977, dalla data del 10 maggio 2014. Allora, il prossimo 10 maggio 2014 ci sarà a Torino una manifestazione. Sì, il 10 maggio si terrà a Torino il corteo NoTav. Il corteo è stato indetto in solidarietà con i quattro compagni, Chiara, Mattia, Nicolò e Claudio, arrestati con l'accusa di attentato con finalità di terrorismo e tuttora rinchiusi in sezioni di alta sicurezza. AS2. Sono stati arrestati in seguito all'attacco che nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 un gruppo di persone aveva sferrato contro il cantiere Fortino TAV di Chiomonte con bengala, bombe carta e bottiglie incendiarie, provocando il danneggiamento di un compressore ed il blocco dei lavori. Non si è di certo trattato di un episodio isolato. Negli ultimi anni si sono verificati decine di azioni di sabotaggio e disturbo contro quel cantiere e contro i mezzi e le strutture delle ditte impiegate nei lavori. Queste azioni sono una degna ed efficace risposta alla decisione dello Stato di trasformare quella del TAV in Valle di Susa in una questione di ordine pubblico e di attuare una vera e propria occupazione militare del territorio in questione. Infatti, questa numerosa serie di attacchi, dalle varie caratteristiche, hanno dimostrato che il massiccio apparato poliziesco schierato a difesa del progetto TAV non è invincibile e che non bastano le minacce e la violenza dei fautori dell'opera per fermare un movimento popolare. Queste azioni sono inserite a pieno titolo in un più ampio movimento di lotta sociale che fa della pluralità dei contenuti e dei metodi di lotta la sua forza e che da oltre 20 anni sta tenendo testa all'arroganza dello Stato e del capitale, esempio unico tra le lotte in corso nell'Italia degli ultimi decenni. E questo stralcio l'abbiamo preso da un comunicato fatto da un'assemblea indetta lunedì scorso nel Dipartimento di Fisica compagne e compagni che hanno promosso questa iniziativa all'interno del NoTav Tour, e quindi NoTav Tour alla Sapienza. Questo documento è particolarmente bello, per questo pensavamo, facendo uno strappo a quello che è il nostro separatismo, di pubblicarlo sul nostro blog, perché è particolarmente bello e centra particolarmente quello che sta succedendo. Verso questo movimento è stato sferrato un attacco repressivo teso ad annientarlo, che ha acquisito i caratteri di una vera e propria persecuzione di massa. Circa 1 migliaio di attivisti sono stati inquisiti da una magistratura, quella torinese, degli inquisitori Caselli, Padalino, Rinaudo, che non si pone alcuna remora nel farsi arma al servizio delle lobby politiche ed economiche della TAV. La cricca dei magistrati nella sua opera è affiancata da un'informazione embedded prodotta da veri e propri professionisti della disinformazione, giornalisti in trincea. Non ci indigniamo di fronte a tutto questo, perché siamo consapevoli di vivere in una società fondata sullo sfruttamento di tutti e tutte, ad unico vantaggio degli interessi del capitale, ma ci sembra oltremodo importante conoscere e capire le mosse del nemico per meglio indirizzare la nostra azione. L'utilizzo di misure eccezionali nei confronti di compagni arrestati, l'accanimento contro la lotta no TAV, a nostro avviso vanno al di là della volontà di realizzare a tutti i costi una grande opera. Si vuole annientare uno tra i principali movimenti sociali presenti nel nostro paese, perché hanno paura che questo esempio si propaghi generando molteplici situazioni di lotta realmente conflittuali. Saltiamo un pezzo del comunicato, arriviamo direttamente alla fine, in cui si dice: si può discutere su quali siano le migliori modalità di risposta agli attacchi che subiamo, ma è importante che nessuno arretri. Per questo siamo convinti che vadano difese tutte le espressioni dello scontro sociale e adoperarsi per ampliare i vari fronti di lotta coinvolgendo altri settori. Vorremmo inoltre avere l'occasione di aggiungere alcune nostre considerazioni sul concetto di solidarietà, che vorremmo venisse concepito in maniera più ampia rispetto alla semplice funzione di testimonianza e di vicinanza a chi è, colpito. Fare della solidarietà un'arma, fare intravedere le potenzialità sovversive di questo concetto. Realizzare reti di rapporti sociali dirette tra gli sfruttati in maniera autonoma e orizzontale. Attuare qui ed ora un diverso modo di vivere, che frantumi l'alienazione che ci separa gli uni dagli altri. Attuare una secessione dai meccanismi alienanti che ci vengono imposti. Di tutto questo e di molto altro, ok, compagni e compagni promotori dell'iniziativa. Speriamo che Chiara ci stia ascoltando, perché purtroppo sta nel carcere di Rebibbia qui a Roma, però siccome può sentire la radio spero che ci ascolti e le mandiamo il nostro abbraccio più grande e affettuoso. E la manifestazione di Torino è per lei e per tutti gli altri compagni e compagne arrestati, perseguitati, inquisiti e chi più ne ha più ne metta nella loro lotta contro il TAV. E come dice questo comunicato delle compagne e compagni del Dipartimento di Fisica, è una lotta che è un esempio tra le lotte in corso nell'Italia degli ultimi decenni. Ricordiamoci sempre che Chiara, Nicolò, Mattia e Claudio sono stati accusati di terrorismo. Questo è stato un salto, per quello anche la manifestazione di sabato è particolarmente importante. C'è stato un salto da parte dello Stato, degli organi repressivi dello Stato, nei confronti della lotta no TAV. Quindi noi ci siamo chieste due cose, come femministe, come compagne, Ci siamo fatte due domande. Che cosa significa essere nella lotta no TAV? Che cosa significa quel concetto di solidarietà in maniera ampia, di testimonianza e di vicinanza di cui parlava il comunicato di prima? Che cosa significa come si devono porre? Noi stesse ci siamo fatte questa domanda: come ci dobbiamo porre rispetto a questo attacco? E diciamo ci sono venuti fuori prepotenti due concetti. Uno, che è quello dell'assunzione dell'illegalità, e l'altro, l'illegalità delle lotte come fonte del diritto. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You. Follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover. $20,000 bail for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. Show me up and I tell them lies for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Quindi cosa vuol dire l'assunzione dell'illegalità? Più che assunzione dell'illegalità in senso lato, è comunque assunzione delle scelte e delle azioni che vengono fatte da chi si pone in maniera antagonista rispetto a questa società. L'assunzione, per assunzione intendiamo assunzione collettiva. Per esempio, facciamo un esempio che riguarda proprio il nostro essere femministe. Quando si faceva negli anni 70 la lotta per l'aborto, si andava, noi donne, le donne, le femministe andavano nelle piazze e dicevano abbiamo tutte abortito. Quindi qualsiasi cosa succedesse, qualsiasi cosa venisse scoperta, qualsiasi azione penale venisse messa in atto, si diceva abbiamo tutte abortito. Perché? Perché è un'assunzione collettiva di responsabilità. È una complicità anche. Sì, certo, è una sorta di complicità e comunque ogni volta che un'azione, chiamiamola illegale fra virgolette, perché poi il concetto di illegalità è sempre legato alla legalità di questo Stato, no? Per cui chi decreta cos'è legale e cos'è illegale è sempre questo Stato. Comunque ogni volta che una lotta viene dichiarata illegale è importantissima l'assunzione di responsabilità collettiva, perché più viene assunta la responsabilità collettiva più si fa quadrato e più è difficile per il sistema agire penalmente nei riguardi di una miriade di assunzioni di responsabilità di questo tipo. E infatti in questo senso, perché proprio perché riteniamo molto importante l'assunzione collettiva della responsabilità del movimento, noi abbiamo fatto un documento in cui vorremmo ribadire proprio questo concetto per la manifestazione del 10 a Torino. Il documento si intitola "Le cose cambiano. Le modalità che vengono attivate nella cosiddetta democrazia borghese quando si vuole ottenere il consenso rispetto a leggi, programmi, opere hanno un percorso preciso, consolidato e ormai smaccatamente manifesto. E tanto più questo vale anche per le grandi opere. Si presenta la mobilità come sinonimo di successo e di progresso. Si parte da studi di ingegneria che abbozzano piani faraonici che possono essere di qualsivoglia tipo: aeroporti come nel Viterbese, autostrade come in Maremma, ponti di Messina. Il meccanismo è sempre lo stesso. L'impatto ambientale devastante e lo sconvolgimento degli abitanti e degli abitanti locali vengono rimossi attraverso l'esaltazione delle soluzioni tecnologiche all'avanguardia, condizione per solleticare e suscitare l'orgoglio nazionale. È il meccanismo del gigantismo che torna utile ai progetti insensati come il TAV. Si comincia solleticando gli interessi dei grandi lettori, che dovrebbero convincere gli amministratori locali puntando sui loro desideri di carriera e visibilità nazionale, e questi ultimi dovrebbero irretire gli abitanti con la presunta ricaduta positiva sul loro territorio in termini di occupazione e di finanziamenti, che non esistono se non sulla carta. E infatti questo è il meccanismo, facciamo un'introduzione, è il meccanismo che viene sempre usato nella cosiddetta democrazia borghese, no? È un meccanismo consolidato che si perpetua. Infatti poi come continua questo meccanismo? Si dà per scontato che una volta terminato il cantiere le promesse non saranno mantenute, quelle dei finanziamenti, dell'occupazione, eccetera, cioè le ricadute positive, no? E allora interverranno i tecnici dell'economia che con grafici, diagrammi, analisi dimostreranno a chi ci vuole credere che se le ipotesi promesse non si sono verificate è stata colpa di questo, di quest'altro motivo ancora. Se voi andate con la mente indietro a qualsiasi situazione si sia verificata, ma questo succede al di là dei progetti appunto insensati come il TAV, dei progetti giganti, no? Anche nelle piccole cose, non so, nella scuola, nella sanità, no? Viene sempre, si perpetua questo meccanismo. Nel caso del TAV non dovranno neanche essere fantasiosi come loro costume, la parola totemica è già pronta: è colpa della crisi. Studi professionali che si prestino a piegare gli interessi della collettività agli interessi di pochi se ne trovano e sono la conferma dell'inconsistenza della presunta neutralità della scienza e della tecnica. Naturalmente i politici, in abusato gioco delle parti, faranno finta di credere all'obiettività degli studi, tanto più se voluminosi, ricchi di parole difficili, infarciti di grafici, e su questi chiederanno fiducia. Per quanto riguarda la stampa e i media, il problema non sussiste, non sono solo allineati, ma fanno parte integrante del progetto dominante. Con la costruzione, la manutenzione, la gestione e lo sfruttamento di un'infrastruttura così impegnativa come il TAV, ce n'è a sufficienza per legare tanti appetiti e tanti interessi, con la magica formula del partenariato pubblico-privato, maniera elegante per dire che il pubblico si fa carico dei costi e delle perdite e il privato dei profitti. Il deficit, il debito, i tagli alla sanità, alla scuola, allo stato sociale vengono dimenticati. In nome della ricaduta positiva di posti di lavoro e della presunta crescita economica locale, che tra l'altro è già messo in preventivo che non ci sarà. Intanto, per buttare fumo negli occhi, basta moltiplicare a dismisura le tonnellate di merci da trasportare e i passeggeri che usufruiranno dell'opera e dichiararsi favorevoli alla concertazione pubblica trasparente, dando per scontato che il dissenso è un gioco che poi rientra e diventa consenso. Bisogna discutere con loro apertamente e convincerli che poi tanto si farà, diceva Romano Prodi. Poi, quando a cose fatte i nodi verranno al pettine e sarà chiara l'enormità della truffa, allora si potrà ascoltare qualcuno che denuncerà il tutto con qualche tavola rotonda in qualche sede, magari del PD. Allora, ma udite udite cosa sta succedendo. E infatti questo gioco democratico che loro vorrebbero portare avanti con la popolazione della valle non funziona. I notav e le notav non ci stanno al gioco, si incardinano sul territorio, lo difendono da anni, denunciano i soprusi, le violenze, le prevaricazioni e sono pure d'accordo, popolazione, amministratori, attivisti e gente comune, donne, uomini, ragazzine e ragazzini. Allora le cose cambiano, non sono degni del gioco democratico, vedranno che la musica è diversa e il sistema è entrato un po' in fibrillazione, no? E infatti scatta il ricorso alla forza pubblica, si prova a schiarire le idee dei refrattari e delle refrattarie con le botte, i gas lacrimogeni, le multe, le denunce, le inquisizioni, e per rendere il tutto legale basta dichiarare un cantiere zona militare di interesse strategico. Eh sì, perché poi che cosa succede con lo Stato, che cosa fa? Fai lo sciopero duro nei trasporti, nella sanità, eccetera, eccetera, e ti precetta, boicotti un cantiere in tutti i modi possibili e immaginabili, non vuoi che il tuo territorio sia rovinato, e dai zona militare di interesse strategico, per cui dichiarata zona militare i risvolti penali diventano molto pesanti. Il gioco è duro, ma vale la candela. Gli interessi sono tanti e l'appetito viene mangiando. Ma i refrattari e le refrattarie, sì sì, perché non sono solo loro refrattari e refrattarie, ormai hanno attivato consenso e siamo tutte e tutti dalla parte loro. Che fanno? Si consultano, fanno pubbliche assemblee, decidono delle strategie, decidono di se stesse e se stessi, allargano consenso e solidarietà. Se pensiamo che addirittura per i giudici questo allargare sostegno e solidarietà, per esempio quando nelle manifestazioni sono venuti compagni e compagne dall'estero, no? da altri stati, dalla Francia, dalla Svizzera, e sui giornali mainstream sono uscite notizie del tipo: ci sono i collegamenti internazionali e sono foraggiati dall'estero, cose di questo tipo, no? Cioè la solidarietà alle lotte è un concetto che non gli appartiene affatto, o meglio fanno finta. Ma se decidono di se stesse e se stessi, allora sono terroriste e terroristi. E tutti quelli che le aiuteranno e lotteranno con loro sono anche loro terroriste e terroristi. Ma siccome noi siamo femministe, facciamo dell'autodeterminazione un concetto portante del nostro essere femministe, riteniamo che ognuna di noi e tutti e tutte abbiano il diritto e comunque debbano avere la forza e debbano avere la voglia e debbano decidere di se stesse e di se stessi, e proprio questo è il concetto cardine che lo Stato non può e non vuole fare passare nella lotta della valle, beh allora noi ci assumiamo quella responsabilità collettiva di cui parlavamo all'inizio e diciamo che siamo tutte terroriste. E sempre a proposito della manifestazione del 10, c'è una bella lettera della mamma di Mattia. Sì, la lettera la potete trovare su notav.info. Dice: carissimo figlio, perdonami se rendo pubblica questa lettera, ma ciò che ci accade non appartiene solo a noi. Tra pochi giorni sono 5 mesi che sei chiuso in carcere, tanta vita rubata. Sono 150 lunghi giorni e 150 lunghe notti di angoscia. Ti chiedo sempre di tenere duro, ma sono io che non ho più la forza. L'amarezza a tratti mi sommerge, lo sdegno mi ferma il respiro. Mi sveglio di soprassalto ogni notte e nel silenzio mi sembra di poterti raggiungere nell'isolamento atroce in cui ti costringono. L'idea di vivere in un paese che permette che questo accada mi ripugna. Sono scene queste maschere del potere interessate solo alle loro poltrone e ai loro portafogli. La corruzione in Italia è spaventosa. La politica ha perso qualsiasi ideale di giustizia e di uguaglianza. E per voi giovani non c'è nulla. Il vostro futuro è stato depredato da chi oggi vi giudica. Né lavoro, né aria che si possa respirare, né terra pulita, né libertà. Dovete tacere, dovete subire, altrimenti essere incarcerati. Carissimo Mattia, perché ti abbiamo insegnato il dovere di dissentire, di ribellarti davanti alle ingiustizie? Perché ti abbiamo trasmesso l'amore per l'umanità e per la terra? Non era meglio lasciarti crescere cullato dall'edificante cultura offerta dal nostro paese negli ultimi 20 anni? Sono certa che risponderai no, che preferisci mille volte essere chi sei e dove sei piuttosto che adeguarti a questo spettacolo raccapricciante offerto da chi esercita l'abuso di potere applaudendo gli assassini di Aldrovandi, rispondendo con i manganelli e la prigione ai movimenti popolari che nascono sulle necessità reali della gente, ignorate da chi dovrebbe cercare e trovare delle risposte. Carissimo figlio, sabato 10 saremo tutti a Torino alla manifestazione contro la barbarie dell'accusa di terrorismo, contro la devastazione della Val di Susa, per la libertà di dissenso, per il diritto degli italiani a un'esistenza dignitosa. Ci saremo tutti e saremo tanti. Manifesterò tutto l'amore che provo per te, ma anche per Claudio, Chiara e Niccolò, e la promessa è di non smettere mai di lottare fino a quando non vi riporteremo a casa. Un abbraccio, mamma. don't talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Buonismo violento. Il capitale, in quanto rapporto sociale, diventa società, mentre lo Stato si fa carico di assumere, legittimare, promuovere e difendere tutte le relazioni di dominio del capitale stesso. Pertanto sottopone a comando e a controllo preventivo e repressivo tutti i nodi in cui si produce antagonismo sociale. Da qui ogni ipotesi rivoluzionaria non può che incardinarsi ed approdare alla conclusione che si deve porre fuori e contro di esso, in quanto affermazione della vita sulla morte, dell'attività creativa sulla merce. È necessario perciò recuperare la valenza antagonista e liberatoria del femminismo, riaffermare con forza l'alterità di ogni movimento femminista a qualsiasi ipotesi di gestione di questa società. Porsi fuori e contro la società del capitale a partire dal rifiuto della sua ideologia, al fine di far valere la volontà di riscatto e di liberazione delle oppresse e degli oppressi. Una pratica di riappropriazione e soddisfazione dei propri bisogni, fuori e contro il lavoro salariato, i ruoli, la meritocrazia, le gerarchie, sapendo che dovremo fare i conti con il riformismo e la socialdemocrazia, tutti tesi ad amministrare l'oppressione delle donne, dei lavoratori, dei popoli del terzo mondo. Infatti sono soprattutto riformisti e socialdemocratici che premono maggiormente per le riforme, parola di cui hanno stravolto il significato originale per ridefinire i rapporti lavorativi, lo stato sociale, il sistema giuridico, mentre spetta a noi praticare direttamente i nostri bisogni reali, con la consapevolezza della portata liberatoria che questo ha nei confronti dei miti volutamente fallaci e fuorvianti della legalità e della non violenza. Un ruolo particolarmente importante viene ricoperto all'interno della componente socialdemocratica dalle vestali della legalità e dalle prefiche della non violenza, tutte intente a contrabbandare un buonismo di facciata per anima del femminismo. Un buonismo infinitamente violento per l'intolleranza, la demonizzazione e la ghettizzazione di chi non la pensa come loro. Un buonismo violento che trascina ogni rivendicazione nel pantano di un asservimento volontario, in una litania di querule richieste di delega e di protezione, togliendo capacità di indignarsi e possibilità reattiva. Un buonismo di facciata che riporta le donne e le diversità alla condizione di esseri da tutelare, continuamente alla ricerca di attenzione e di approvazione. Una reiterata riproposizione di quello che il patriarcato richiede alle bambine fin dalla più tenera età e il neoliberismo pretende dai popoli del terzo mondo attraverso le ONG, le ONLUS e le associazioni non governative. Popoli del terzo mondo che dovrebbero trovare una loro dichiarazione di esistenza nell'approvazione da parte della cultura occidentale neocoloniale a cui si dovrebbero affidare mani e piedi legati. Questo vale anche per noi. È indispensabile recuperare l'autonomia che la presa in carico direttamente da parte nostra dei nostri desideri e la consapevolezza della possibilità di realizzarli. È un tessuto di comunicazioni, organizzazioni, informazioni, lotte, conoscenze e saperi che si oppone alla società capitalista patriarcale e della quale è alternativa. È la riappropriazione di un tempo liberato dal lavoro salariato, dal lavoro di cura, dai ruoli ed è coscienza e tessuto di comunicazione e organizzazione sociale. Ciao. Sometimes when you're sick, and I'm your petty blue, and we're singing it close, like the girls in Belleville Rendezvous. I wish that we could somehow freeze the frame, but this isn't the silver screen. No, there's no pause, no rewind. Time to find out where the story goes. Sat hip to hip with the curtains closed, watching ourselves, oh, cinema. Take our positions as the cameras roll. Allora, il secondo concetto su cui avevamo imperniato la trasmissione e comunque la nostra ricerca di la nostra riflessione era il concetto che l'illegalità delle lotte è fonte del diritto. Che cosa vuol dire questo? Allora, abbiamo scoperto, diciamo casualmente, molte di noi hanno del materiale, molte di noi trovano del materiale nelle librerie, nei libri usati, e ci è capitato fra le mani un numero di Rosso, di un giornale rosso di marzo-aprile del 1975. In particolare è una di noi che l'ha scovato. E abbiamo trovato un articolo che ci ha colpito profondamente. Si chiama Illegalità delle lotte, fonte del diritto. È chiaro che adesso vi leggeremo degli stralci e dovete pensare che è del 75. Quindi è in certe dichiarazioni assolutamente datato, soprattutto rispetto alle soggettività che nomina. Però è quanto mai attuale nell'analisi. La conclusione sostanzialmente positiva per il movimento dei processi agli occupanti di case IACP ed oggi arrestati durante l'autoriduzione dei prezzi al supermercato SMA di Viale Padova ha dimostrato come l'unità di classe costringa a recepire come legali forme di lotta tradizionalmente illegali. È abbastanza inutile rifare la storia di questi processi, delle prevaricazioni poliziesche al tentativo fallito di criminalizzare la protesta proletaria. Questo compito è stato già egregiamente assolto dalla stampa quotidiana e oralmente dalle centinaia di compagni presenti alle udienze. Ci preme piuttosto partire da questa vittoria politica per aprire un dibattito sul problema più generale della repressione oggi, ed in particolare della repressione delle lotte d'avanguardia, dai sabotaggi agli scontri armati. Per la verità, l'ipotesi stessa della repressione come un fatto estraneo all'assetto giuridico-politico dell'Italia repubblicana e come tendenza involutiva rispetto ad una contrapposta legalità democratica ci pare falsa, scorretta e frutto di un'analisi errata della fase odierna dello scontro di classe. Allora, che cosa ci dice? Prima di tutto siamo profondamente contente del fatto che evidentemente in quel periodo i processi agli occupanti di case popolari e per l'autoriduzione dei prezzi al supermercato di Viale Padova, penso a Milano perché Rosso era di Milano, tutto sommato erano andati bene, cioè si erano risolti positivamente. Però che cosa ci dice questo articolo? Ci dice che, parlando della repressione, che l'ipotesi stessa della repressione come un fatto estraneo all'assetto giuridico politico dell'Italia repubblicana e come tendenza involutiva rispetto a una contrapposta legalità democratica ci pare falsa e scorretta. Sì, perché tutti, quando succede qualche cosa, no? Noi ci rifacciamo sempre adesso alla lotta no TAV, perché quella che più di ogni altra riassume tutta una serie di questioni. Allora, che cosa succede? Che si dice, ah, c'è un'involuzione democratica, oppure sui molti giornali anche della cosiddetta sinistra, tra virgolette, di quelli che si contrabbandano per sinistra, parlano di una deriva dello Stato, di un'involuzione dello Stato, di un'Italia che non è più democratica, come eccetera, eccetera. Invece è l'ipotesi stessa che la repressione sia un fatto estraneo all'assetto dell'Italia repubblicana è falsa, è scorretta. È proprio il gioco falsamente democratico che avevamo detto all'inizio della trasmissione, che non è altro che tutto un riproporre dei passaggi di cui la repressione è uno. Cioè, quando tu non stai al gioco e non accetti tutti i passaggi della cosiddetta soluzione democratica, allora si attiva la repressione. Ogni decisione antioperaia diventa il parto di giudici e funzionari fascisti, cui immediatamente si contrappongono le minoranze di sinceri democratici e gli inevitabili appelli in un complessivo revival del fronte popolare che non poteva mancare in questo periodo di generale rilancio degli anni 30. Il risultato è quello di creare degli emblemi di una democrazia capace di rinnovarsi al suo interno e dunque degna di fiducia, in quadro di avallo della tripartizione dei poteri, cara e abbandonata nonostante tutto. Cioè, in pratica, che cosa dice? Che ogni volta che i giudici, i funzionari eccetera prendono delle decisioni, cioè condannano, come adesso, no? Cioè, perché la manifestazione del 10, ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, è fatta in sostegno dei compagni che sono stati accusati di terrorismo, ma perché il 22 maggio ci sarà la prima udienza del processo, e la prima udienza del processo è prevista addirittura in un'aula bunker, tanto per chiudere il cerchio, no? Per dare risalto a questa presa di posizione dello Stato. Allora, che cosa significa? Ma questa presa di posizione non è fascista, non è una deriva a cui si contrappongono, appunto, come dice questo documento, minoranze di sinceri democratici che fanno appelli alla democrazia eccetera. No, è il risultato proprio di tutto quel percorso falsamente democratico che, quando non riesce a mettersi in atto, allora prende altre strade. Friend, how did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you burned. But I can remember all the good things you are, and so I ask you please. please, can I help you find the peace and the star? Oh, my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again. Mentre tutti uniti si ricostruiva la ricchezza dei padroni distrutta dalla guerra, creando insieme il boom economico, i partigiani venivano spesso condannati all'ergastolo. Valga per tutti l'esempio del deputato comunista Moroni, costretto ad espatriare a causa della sua attività di comandante partigiano. Ogni volta che l'attacco repressivo ha spianato la strada, non alla reazione ma alla ristrutturazione, colpendo le avanguardie più decise proprio nel momento in cui gli investimenti e il cambiamento radicale del sistema produttivo distruggevano le antiche consolidate forme organizzative, rendendo difficili le lotte di attacco e permettendo il controllo della situazione. Cioè praticamente dice una cosa che è validissima ancora adesso, cioè che l'attacco repressivo spiana la strada alla ristrutturazione, quando ed è tanto più violento quando capisce e intuisce e si rende conto di quella che è la portata diversa e antagonista di chi gli sta davanti. Cioè non è un caso che sia la Val di Susa e i militanti e le militanti della Val di Susa ad essere adesso oggetto di un fortissimo attacco e ad avere senza motivo alcuno addossata l'accusa di terrorismo, perché la loro lotta ha una valenza che trascende quella effettiva. È una lotta per la rivendicazione della decisione sulla propria vita, e questa è una cosa che il sistema non può assolutamente accettare. Questa è una cosa che ci lega profondamente come femminista alla lotta della Valle. Fear not to relay my cry. Il problema della repressione può essere risolto solo in termini interni al movimento, solo con l'attacco alle istituzioni e non con richieste di legalità. Negli anni 30 erano puniti a norma di codice penale lo sciopero e il picchetto, il volantinaggio e la manifestazione, ma erano anche una necessità materiale della classe operaia e sono entrati nell'area dei diritti politici. L'illegalità delle lotte è a tutti gli effetti una fonte del diritto. E qui si apre il discorso, infatti, che noi volevamo fare, che ci aveva molto colpito. Allora, da una parte c'è tutto il discorso sulla repressione, che non è una deriva dello Stato democratico, ma è in parte integrante di questa organizzazione sociale di classe. E l'altra è che le lotte che vengono represse e che sono fuori della cosiddetta legalità borghese sono invece la fonte primaria del diritto, la fonte primaria dei diritti. Per esempio, a questo proposito possiamo fare un esempio molto più vicino a noi come femministe e alla nostra lotta di donne, leggendovi un pezzetto di un articolo di Sulle Monde Diplomatique che riguarda un'intervista a Christine Delphi. Sometimes when you talk and I'm your petty blue and we're singing it close like the girls in Belleville rendezvous. I wish that we could somehow freeze the frame, but this isn't the silver. È un numero delle Monde Diplomatique del 2004 e che avevamo già usato in occasione dell'incontro sulla memoria femminista, mi pare, non vorrei sbagliarmi. E dice così: ottenere nuove leggi non era la preoccupazione principale del MLF, che è Movimento di Liberazione Femminile, giusto? Femminista. È francese, quindi. Il suo scopo era più ambizioso, più utopico. Le leggi non sono state il positivo sottoprodotto di un lavoro gratuito, privo di finalità concrete e immediate, come la ricerca di base. E se un sottoprodotto è nato, è anche perché non era lo scopo ultimo, o piuttosto perché si mirava più in alto. Questa ambizione irrealistica, che si permetteva di mettere tra parentesi la realizzazione immediata, ha prodotto un tale slancio che alcune cose sono poi state ottenute in concreto. Quindi è importantissima la manifestazione del 10 maggio ed è importantissima la presa di coscienza, appunto, che l'assunzione, il farsi carico collettivo delle azioni del movimento, prendere coscienza che l'illegalità, appunto, l'illegalità delle lotte è fonte del diritto, e che non è chiedendo diritti che si ottengono diritti, ma portando le lotte sul piano della antagonista della rivendicazione di spazi di vita, di desideri, e quindi della lotta di classe e di genere per noi. E per questo vi diamo anche un numero di cellulare, eventualmente, se volete provare, adesso non so se ci saranno ancora posti, a prenotare i pullman per Torino, che è 351 09 30 641. Questo l'abbiamo preso dal manifesto dell'Assemblea del Dipartimento di Fisica, e quindi se qualcuna o qualcuno vuole provare a vedere se ci sono ancora posti, può telefonare. Ricordiamoci sempre, noi siamo partite ricordando due date. Siamo partite dal 12 maggio 1977 e abbiamo detto 10 maggio 2014. E siamo partite dal fatto che il mese di maggio ha rappresentato sempre un mese particolarmente importante nella storia delle lotte antagoniste, delle lotte nostre e delle lotte di tutti gli antagonisti e di tutti quelli che di tutte quelle che vogliono uscire da questa società, e che il 12 maggio 1977 è stata ammazzata dalla polizia Giorgiana Masi. Noi ce lo ricordiamo tutti gli anni. L'anno scorso abbiamo fatto una trasmissione, un'iniziativa proprio su questo, mettendo insieme diversi materiali. Quest'anno li pubblicheremo sul nostro blog coordinamento.noblogs.org, perché l'anno scorso non li abbiamo pubblicati, li abbiamo soltanto messi insieme e fatto un'iniziativa per gli studenti medi, e quest'anno li pubblicheremo sul blog, così averli tutti insieme può essere la base per qualsiasi tipo di riproposizione di un'iniziativa del genere e di una riflessione continua, perché la memoria è storia, e comunque senza memoria non si costruisce nel presente né nel futuro, senza una memoria della portata antagonista del movimento femminista. Ricordiamoci che lunedì, che è il 12 marzo, dalle 19 nella sede separatista femminista e lesbica di Via del Vosges 22, proprio perché è un momento di storia e di memoria ed è l'anniversario di Giorgiana, ci sarà una festa. Sì, vi leggiamo il volantino che dice: lunedì 12 maggio dalle 19 in Via del Vosges 22, per ricordare Giorgiana e le tante lotte delle compagne femministe e lesbiche. Tra un sempre ed un mai più, perché non dimentichiamo i tentacoli della repressione che ci hanno toccato e ci toccano, perché nel ricordo delle lotte impariamo ad osare. Alle 19 il 22 apre il baule, mostra di striscioni, chiacchierata e intrugli vegan, e alle 21 concerto acustico delle Stacchi a Spillo. Allora vi consigliamo caldamente di sentire le Stacchi a Spillo,